Tu vas à la cuisine, quoi, et tu gueules ça de la cuisine. Ah Et on oui. va entendre un truc lointain, quoi. Yes. Ouais, c'est cool comme ça. Je me demande si je vais pas le faire en... C'est bizarre avec deux, en fait. Je crois que je ferai. Ça sera plus simple, en fait. Ça sera plus naturel, parce que là, deux, c'est bizarre. Ok. On y va. Nella guerra di Valois, il signor di Vie è morto. Se sia stato un prode eroe non si sa, non è ancor certo. Ma la dama abbandonata, lamentando la sua morte, per 1000 anni, forse ancora, piangerà la triste sorte. Libro di dolci, sogni d'amore, apri le pagine al suo dolore. Son tornati a 100 e a 1000 i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città. Ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore, e il gran ceppo del cammino non varrà a scaldarle il cuore. Fila i tuoi giorni, illuditi ancora che lui ritorni. Libro di dolci sogni d'amore, apri le pagine al suo dolore. Cavalieri che in battaglia ignoraste la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta, siate presti a dar risposta, perché dietro quelle mura vi si attende senza sosta. D'amore, apri le pagine al suo dolore, fila i tuoi giorni, luditi ancora che lui ritorni, libro di dolci, sogni d'amore, chiudi le pagine al suo dolore. Guerra di merda!